Ma Yeah. quindi dunque mai a punto di mai oggi. A che punto siamo? Che I don't know. Va bene così, dunque ricordami la documentazione peggiore, e così noi vedremo che almeno siamo sicuri che ci possiamo portare questa persona, perché tutta quella documentazione si presenta entro maggio, e così vediamo se continuano a fare gli allizi. Due prove, anche a questo che è il fu, come me. dire che è come tanti altri che non vedo nel senso, ma è difficile, certo, perché la portante parte dalla zona vostra e non si discute. che qui a me, io sono davanti alla macchina. Qualche da questo giorno non arriva. Vabbè, ma senti, a me ti fa le cose, non c'è l'antenna della macchina, capisci, era quello che volevo dire. E io arrivo anche a fare questo regino, con lui arrivavo con la amica. Oh, la cosa, la macchina, la cosa, non arrivo a stare. E vabbè, ma io sono una carlanda, pure che non c'è, la pista non è tanto alta, la pista che la dico, vabbè. Guarda, io sono molto questa maniera, sempre perfetta. Ciao Paolo di Rogero, ho le fine anno, tolgo lo stiro, una bella pulizia, leggera leggera, un po' di pagellina e ripiantiamo, una tra controversia e stiamo andando. Negativo, la differenza di questa posizione è quella lì, che io anche nella zona del mare sicuramente arrivo più basso di te con la stessa potenza, se tu aumento chiaramente arrivo più basso di te, ma con potenza minima arrivo sicuramente meno di te, perché tu sei più aperto, però arrivo, mi sentono tutti, mentre tu da questa parte non arrivi, perché è una zona molto molto balorda. Io sono guardato il tutto via, così troppo il tutto. Io con la zona del mare sicuramente se ci mettiamo a fare proprio le risposte di una zona che ha pensato, quelle zone lì, a parità di potenza. Poi io mi posso salvare perché uso più potenza di te. Ma arrivo, dato ma arrivo, capito, a differenza tua. Mentre invece tu da questa parte, dove sono io, non arrivi perché è molto, molto difficile. È una zona molto balorda, riesce proprio aperto a tutti i lati, è molto, molto in alto, libero per passare sulla parte di Cosenzano, Florina, quelle zone lì. Capito, mi hai? Pietro, sì. Allora, sì, adesso, già, vai, chi sente? Sì, ma c'è bello, voglio sentire, lo sento anche io. Io non voglio essere come per parlare. Mi sembra che sia stato un piccolo. Allora, per me non mi sono tanto piccolo. No, la Faiati mia è un baracchino 40 canali, è 40 canali col tanno più 3, ma adesso non sto usando il baracchino, adesso sto usando una CS di quelli professionali con un microfono professionale della Kenwood. È il Typhoon 2, la Faiette si chiama, Typhoon 2, è un baracchino a 6 bande praticamente. Ma infatti il video mi sembrava quello, hai visto già, tutti con la stessa radio, ma lui in macchina c'ha la tua stessa antenna e la tua stessa radio. Allora, tutti i dieci baracchini, è entrato un altro amico, vediamo un po', Roberto, avanti. Allora, mamma, ma comincia a scoppiare per favore. Io ti l'ho chiesto, io ce l'ho provato, se si dice, mi hanno anche dito. Se c'è lì lei attacca i sigari, solo che non può dire nessuno. Allora, è un capo lungo per poter trasmettere, l'unica soluzione è quella. Ciao Roberto, buonasera, ben sentito. C'è Pietro, prima che lo perdiamo, vediamo un po' cosa va avanti Pietro. Ma stai trovando su questo cambia? Mi senti sempre, sì. Roberto è il numero uno sulla base mobile, avanti Roberto. Al canalone, sì, è già mezzo capitato, c'è il canalone, al canalone, 9:30, al suo canalone, avanti Natali. Oh, sai che c'è qua in giro? Ciao, ma lo metti in distanza adesso. Dovresti sentirmi fino se stai facendo quella strada lì, fino a Bertiglia, e passato Bertiglia poi di Castellati, perché il tuo segnale è molto basso, se avessi avuto un po' di potenza ci saremmo sentiti ancora più avanti. Va bene, ma se sei paletto mi dietro a te che ti fa compagnia. Thank you. senza mettere prima buca, non so se ho letto, si allontana, si sta allontanando, si ha fregato. Maria Luisa. Maria Luisa. Nanna stava andando. Sì, aveva la voce di fuoco, questa era la scuola. Avevo sentito. Thank you.

Ciao, ciao, ciao.